lasciano segni nel cuore. Faccio canzoni, racconto emozioni d'amore. Un giorno parlerò di te, lo giuro, di quanto male hai fatto a me. Stasera, occhi socchiusi che sembrano quasi indifesi. Sulla tua faccia pulita al profumo di rosa. Un giorno canterò di te, sicuro. E ti ricorderai di me. Chi lascia non sta male, fa spazio nel suo cuore, però sa come far morire a chi gli ha dato tanto amore e tante notti per sognare. Lo sai, chi lascia ti fa male, chi lascia